Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Una trasmissione radiofonica che sogna e costruisce una società cruelty free e che, partendo dal presupposto che ogni vivente merita dignità e rispetto, vi porta ogni settimana dal marzo 2012 le voci e i progetti di chi si sta impegnando perché tutti i viventi possano vivere una vita libera. E questa è, pensate, la nostra 358esima puntata. Cominciamo la puntata di oggi con una storiella che in realtà è un gioco, pensate, che risale ai tempi di Carlo Magno, un gioco di logica. Un contadino deve trasportare sull'altra riva di un fiume una capra, un lupo e un cesto di cavoli. Ha a disposizione una barchetta che può contenere oltre a lui solo una di queste cose per volta. Può fare quanti viaggi desidera, ma deve risolvere un ulteriore problema. Non può lasciare soli sulla riva la capra e i cavoli. E neppure il lupo e la capra, perché la capra mangerebbe i cavoli e il lupo mangerebbe la capra. Ecco la soluzione. Traghettare per prima la capra, tornare indietro e traghettare i cavoli, riportare indietro la capra per non lasciarla con i cavoli, traghettare il lupo, che ora starà coi cavoli, tornare indietro a prendere la capra. Questo gioco è stato inventato da Alcuino di York, un teologo e pedagogo inglese che nel 782 fu chiamato, pensate, da Carlo Magno a dirigere la Scuola Palatina di Aquisgrana in Germania, una delle prime scuole pubbliche al mondo destinata ai giovani aristocratici. Vi abbiamo raccontato questo giochetto di logica non solo perché oggi salvare capra e cavoli significa salvaguardare due obiettivi contrapposti e apparentemente inconciliabili. Ve l'abbiamo raccontata soprattutto perché hanno dedicato il loro progetto a questo divertente giochetto di logica un gruppo di persone che a Mesero, in provincia di Milano, hanno fondato un rifugio per animali salvati dallo sfruttamento. E la nostra corrispondente da Milano, Roberta Marino, non si è lasciata sfuggire questa occasione. Sentiamo l'intervista. La fattoria è nata da un sogno, il sogno di avere un posto dove poter tenere degli animali che sono considerati da reddito e poterli salvare e portarli a fine vita nella maniera più serena. Siamo immersi nella campagna, è una cascina con 5 ettari di terreno. E voi vivete fisicamente anche qua? La residenza è dell'associazione, ma noi non viviamo fisicamente qua. L'associazione è la loro voce Cani Sciolti che gestisce il rifugio Fattoria Capercavoli. C'è sempre qualcuno di giorno e di notte. Ci alterniamo, diciamo. E poi sabato e la domenica ci sono gli altri volontari che vengono a dare una mano, perché il sabato e la domenica è quello dove ci sono più i lavori grossi da fare, i lavori più grandi, insomma. Il nostro scopo è quello di salvare gli animali cosiddetti da reddito, quindi mucche, capre, galline, pecore. Qui c'è Giuditta vicino a noi, che lei vive praticamente dentro il cascinale insieme alle galline, a Thelma e Louise, che sono le due papere, e lei è sempre molto curiosa, quindi quando sente parlare, anche se mi sente parlare al telefono, lei mi segue e si avvicina. Infatti, se adesso mi chino, lei si avvicina e mi tocca più che altro per assaggiarmi. Dietro abbiamo Teresa che sta facendo colazione con la polenta avanzata, va bene comunque. Senti, e Giuditta per esempio da arrivata? Sì. Allora, Giuditta è stata abbastanza fortunata perché è cresciuta in un posto dove comunque la tenevano come animale d'affezione. I padroni di casa dovevano andarsene, non riuscivano più e hanno cercato un posto dove poterla tenere. Al contrario di zio Paperone ed Esther, le altre due oche, che loro sono sfuggite alla pentola perché gli altri volatili che avevano sono stati venduti. Poi qui abbiamo le galline da carne, le vaiole, le due papere, abbiamo quattro conigli, i due cavalli, uno anziano e uno meno, abbiamo i vitelli che arrivano da un allevamento di Piacenza. Il suo scopo è, prima, salvarli, secondo, portarli alla fine della loro vita nel miglior modo possibile, e poi la cosa fondamentale per noi è farli conoscere alle persone. Graditissimi i bimbi, perché loro hanno una empatia pazzesca nei confronti degli animali, che molte volte non conoscono, e quando vengono qui esprimono tutto il loro entusiasmo nel conoscere queste creature. Siamo vegani per scelta etica, ovviamente, e quindi qui i nostri animali vengono rispettati in totale. Si cerca di far fare loro quello che vogliono, anche quando ci sono le visite, non ci si intromette, si cerca sempre di rispettare i loro tempi. Ci sono tantissimi animali qui da noi che ci corrono incontro, altri che sono un po' più riservati e noi li rispettiamo. Più o meno quanti animali avrete? Allora, più o meno tra il più piccolo, dal più piccolo, che sono i coniglietti, i volatili, al più grande, sono circa una cinquantina. Noi non abbiamo introiti perché, come qua si dice, questa fattoria non dà reddito, dà solo spese, no, tra virgolette. Quindi noi viviamo di donazioni, viviamo con le adozioni a distanza, sono fondamentali per noi le adozioni a distanza, facciamo degli eventi. Nuvola, Nina, Namas e Gilda. Nuvola, Nina e Namas sono già un nucleo familiare composto. A quanto pare Nuvola è la mamma di Namas. Adesso li vedete così, loro sono arrivati che erano molto più piccoli loro e lui era un capretto, era già stato svezzato, però era ancora un cucciolo. Adesso piano piano, un passo alla volta, anche vedendo l'esempio delle capre con cui vive, si avvicina sempre di più, non si lascia ancora accarezzare, ma si lascia, ad esempio, viene lei ad annusarci. Loro invece sono proprio spudorate, come avete visto sono arrivate appena noi siamo entrati, non hanno alcun problema a farsi accarezzare, assaggiano i vestiti, i lacci delle scarpe, qualunque cosa potrebbe essere commestibile. Bianca, vieni amore, Bianca, dai Bianca, vieni, Bianca. Lei è arrivata il giorno di Pasqua e aveva 3 settimane. Proprio precisa, vero amore? L'abbiamo cresciuta noi con il biberon, e ha sviluppato lei un rapporto molto molto forte. Lei piace giocare, c'è un atteggiamento che uno si aspetta magari da un cane che ti insegua, e invece c'hai una pecora che fa le stesse cose. Oppure mi siedo, lei viene a cercarmi con la zampa. Uno, poi le coccoline. Amore, vuoi tante coccoline? Te le facciamo le coccoline? Dai, vieni. Quei tuo patatone. La fattoria Capro e Cavoli si trova in via Cascina Americana a Mesero, in provincia di Milano. Per informazioni consultate il sito http://fattoriacapreecavoli.blogspot.it oppure su Facebook cercando Fattoria Capre e Cavoli. Roberta Marino, inviata a Mesero per Restiamo Animali. Nella vecchia fattoria, ia ia o, quante bestie zio Tobia, ia ia o, c'è la capra, capra, capra. Nella vecchia fattoria, ia ia o, attaccata al carrettino, ia ia o, c'è un quadrupede piccino, ia ia o, l'asinelli, neli, neli, neli, neli, c'è la capra, capra, capra. Nella vecchia fattoria. E a proposito di capre e cavoli, il cavolo nella sua umiltà è una delle verdure più nutrienti e salutari del mondo. Dovrebbe essere infatti considerato fondamentale per la nostra alimentazione, per la ricchezza e la varietà delle sue proprietà benefiche, proprietà antinfiammatorie, perché è ricchissimo di ferro, perché è ricchissimo di fibre, di acidi grassi, omega 3, omega 6, ricco di calcio, rinforza il sistema immunitario, è un antiossidante naturale contro i radicali liberi, è un disintossicante, addirittura un antitumorale, abbassa la pressione e protegge cuore e arterie. Come godere dei benefici di questo umile ma eccellente ortaggio? Per esempio attraverso una ricetta come quella che il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni ha preparato questa settimana per voi. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Non è zuppa, è pan bagnato. Quindi cosa hai cucinato? Non è carne, non è pesce. Le valigette o involtini di cavolo verza sono uno di quei piatti che si trovano nella tradizione di molte regioni d'Italia e non solo. Ognuno col suo stile e con il suo segreto realizza una di quelle ricette che definisco svuota frigo, perché per realizzare il ripieno si possono utilizzare avanzi di verdure o di piatti preparati il giorno prima. Questa è la mia versione vegan. Ingredienti per 4 persone sono un cavolo verza, 400 g di verdure di stagione, 200 g di tofu, uno spicchio di aglio, un cucchiaino di semi di finocchio e olio extravergine di oliva. Nessuno qui si offenda, solo un cavolo a merenda. Lavate la verza e prendete solo le foglie esterne, quelle più grandi, privandole della costa. Fate scottare le foglie in acqua bollente e salata per 10 minuti, quindi scolatele e lasciate raffreddare. Potete utilizzare il cuore del cavolo per il ripieno assieme ad altre verdure di stagione. Mentre le foglie raffreddano, tagliate le verdure a quadretti piccoli e fate stufare il tutto in una padella con olio extravergine di oliva, dove avrete fatto rosolare l'aglio tritato finemente assieme ai semi di finocchio. Quando le verdure avranno perso tutta la loro acqua, unite il tofu tagliato a quadretti molto piccoli e lasciate cuocere per qualche minuto aggiustando di sale e pepe. Farcite ogni foglia di cavolo con un cucchiaio di verdure e tofu. Arrotolate il tutto realizzando un involtino che strizzerete con cura affinché possa fuoriuscire l'acqua rimasta nelle foglie. Adagiate le valigette di verza in una teglia coperta con carta forno. Passate un filo d'olio ed infornate a 160 gradi per circa mezz'ora. Servite calde accompagnando con una salsa di pomodoro. Cuore se ai maialini non viene tagliata la coda, 3 cuori se i suini vengono svezzati per 28 giorni e gli allevamenti dispongono di aree parto all'aperto. Sono questi i simboli che il governo danese propone di adottare per indicare sulle confezioni di carne il cosiddetto livello di benessere animale. Un sistema analogo è in corso di esame in Germania. La discussione è aperta. Per alcuni l'idea di classificare la carne secondo la maggiore o minore sofferenza inflitta negli allevamenti è di per sé inaccettabile. Altri, come l'associazione tedesca di consumatori Food Watch, vorrebbero marchi del genere, ma obbligatori per legge e non utilizzati su base volontaria. Abbiamo chiesto una riflessione su questo tema al professor Luigi Lombardi Vallauri, filosofo del diritto e curatore, con Luciana Castiglione, del volume sulla questione animale nell'ambito del Trattato di Biodiritto. Sostiene Vallauri. Ah. Beh, anzitutto l'espressione benessere, che è nell'articolo 13 del Trattato di Lisbona, è un brutto eufemismo per uno che vive schiavizzato in vista di essere ucciso. Quindi hanno anche abbastanza ragione quelli di Foodwatch a dire che sarebbe meglio comunque la legge, ma le leggi sono molto vincolate a livello europeo perché non bisogna che un paese sia troppo buono e venga meno al dovere di una certa uniformità degli spostamenti delle merci in Europa. E invece credo che bisogna stabilire con forza il principio che i privati possono andare oltre le leggi del loro paese. Inoltre gli eurobarometri hanno accertato che c'è un pubblico molto ampio che è disposto a pagare di più per avere più etica. Il problema vero è quali sono gli effetti psicologici. Secondo me vedere queste carni di maiale etichettate è comunque un segnale che orienta sia la società civile che il futuro legislatore. È un pungolo. E poi è vero che c'è il rischio che facciano pensare che i problemi sono risolti, ma anche una legge che migliorasse soltanto un po' potrebbe far pensare che i problemi sono risolti. C'è una specie di problema filosofico generale, quello del compromesso. È accettabile solo la verità completa o il meglio è nemico del bene o qualcosa è meglio che niente? Ecco, io devo dire che non so se psicologicamente o teoricamente inclino a pensare che il qualcosa di meglio è preferibile a niente. Quindi sarei favorevole a una specie di complementarità tra quelli che accettano il compromesso, specialmente in sede appunto giuridica, pubblica, e gli intransigenti. Ci devono essere tutti e due. Quindi la situazione ottimale è che queste leggi, diciamo, sulle etichettature passino e vengano ancora criticate strenuamente perché non bastano. Ho dei dubbi stilistici sui cuori. Sinceramente mettere dei cuori perché viene svezzato a 28 giorni, ha diritto a 28 giorni con la mamma piuttosto che a 12, quindi sarei per delle picche o dei quadri, ecco, se dovessi scegliere. Però è anche vero che il cuore è talmente inflazionato oggi che non significa quasi più nulla, quindi forse può anche passare. L'etichettatura deve essere concessa con controlli seri, deve essere qualcosa di pubblico, non un'autocertificazione. Infine c'è il problema della effettività delle leggi. In particolare la Germania ha un pelo sullo stomaco incredibile perché c'ha l'articolo 20A della Costituzione che parla addirittura di animali creature come noi, c'ha il Tierschutzgesetz, la legge di protezione degli animali, ha sottoscritto il Trattato di Lisbona e macella ogni anno 58.700.000 suini, coprendo il mondo di Wurst. Allora il teorico del diritto si chiede: ma perché una legge sia vigente, basta che sia formalmente valida o deve essere anche effettiva? Quello che io constato come giurista è che i permessi, tipo è permesso uccidere, sono tutti effettivi e i limiti lo sono ben poco. Aggiungiamo una considerazione: nella società dei consumi, il consumo critico è probabilmente l'atto politico più importante, superiore anche al voto. Anche per questo direi incoraggiare consumo critico mi sembra, malgrado tutto, abbastanza positivo. Love. Patrick Rouxel è un regista che ci piace. Metà svedese, metà francese, è cresciuto tra la Malesia e Singapore e parla tre lingue, inglese, francese e indonesiano. Dal 2003 Patrick Rouxel si occupa di conservazione ambientale e ha collaborato con Greenpeace, WWF, girando e montando film dedicati alla protezione delle foreste pluviali nel mondo. Nel suo sito internet Patrick Rouxel invita a fare acquisti consapevoli, evitando di consumare materie prime non rinnovabili. La nostra Francesca De Matteis ha deciso di recensire per noi Alma, un magnifico lungometraggio di Patrick Rouxel che forse non ha avuto il successo di pubblico che meritava. Ma siamo ancora in tempo per vederlo. Metteremo nel blog di Restiamo Animali un link per poter vedere gratuitamente questo film. Ricordatevi di visitare www.restiamoanimali.it. Coloratissimi area a Giacinto, i giganti pappagalli dal piumaggio variopinto e luccicante si liberano in volo sullo sfondo di un inconfondibile e verdissimo paesaggio amazzonico. I coccodrilli invisibili attendono il calare della notte nelle calme e silenziose acque dei fiumi brasiliani. E poi i piccolissimi insetti dalle forme più buffe, la cui vita prospera sui fiori dalle tonalità uniche. Sono queste alcune delle incantevoli immagini con cui si apre Alma, il docufilm diretto dal regista francese Patrick Rouxel, già noto per il suo precedente Green, pluripremiato film, che racconta un commovente viaggio attraverso gli occhi e i ricordi di un orango femmina, vittima della deforestazione per la produzione di olio di palma del Borneo. Il regista, che dal 2003 realizza documentari per sensibilizzare sul tema della deforestazione, la perdita di biodiversità, il trattamento etico degli animali, nel 2010 dall'Indonesia di Green si sposta in Brasile. Qui, grazie a immagini di un'intensità straordinaria e mai commentate, Patrick Rouxel riesce a testimoniare la bellezza dell'Amazzonia, ma anche la sua fragilità, in seguito alla distruzione del territorio per la produzione di carne, latticini e cuoio. Secondo un'indagine di Greenpeace, infatti, gli allevamenti bovini sarebbero responsabili dell'80% della deforestazione dell'area. Alma non è un documentario sulla biodiversità, sulla natura o sulla sofferenza degli animali. Alma, che in portoghese significa anima, è tutto questo insieme, ma è anche molto di più. È un docufilm sullo sfruttamento degli animali, sull'alienazione dei lavoratori nei mattatoi, nelle concerie, sulla deforestazione per il legno e per i pascoli, sull'assurdo sistema di produzione della soia destinata proprio all'alimentazione animale. Questa soia sarebbe, dopo gli allevamenti, la principale causa di distruzione dell'Amazzonia. Con Alma siamo lontani dai tempi delle potenti e dolorose, quasi snervanti, immagini di Earthlings. Siamo lontani concettualmente dai documentari ambientalisti come Cowspiracy o dall'ultimo documentario di Leonardo DiCaprio Before the Blood, ricchi di dati sull'impatto che l'azione dell'uomo provoca sull'ambiente. Alma racconta qualcosa di più, racconta dell'anima degli animali umani e non umani, attraverso i loro sguardi, attraverso i loro silenzi. I primi sofferenti, angosciati, sempre intensi. I secondi assenti, svuotati e spesso fuori luogo. Con Alma il regista riesce con maestria ad alternare immagini festose e allegre ad altrettante immagini crude e sconvolgenti, creando una sorta di cortocircuito, scioccante ma mai violento. Il regista sembra infatti voler accompagnare lo spettatore in questi cambi di scena, non per scioccarlo, ma per aiutarlo a comprendere l'enorme paradosso che stiamo vivendo. Un docufilm che senza parlare chiede di aprire gli occhi sull'altro, animale o umano che sia. Un film che arriva all'anima, anche dello spettatore. Di news, la prima è legata strettamente all'attualità. Il prossimo esecutivo cambi passo. L'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, si appella al presidente Mattarella affinché non firmi i decreti con cui si autorizza la caccia alle marmotte e ad altri selvatici protetti nelle aree naturalistiche del Trentino Alto Adige. Avevamo parlato di questo decreto nella nostra scorsa puntata e adesso, a fronte di un risultato elettorale che ha assunto le proporzioni di un vero e proprio plebiscito contro la politica del governo Renzi, anche in materia di animali e ambiente, l'ENPA dice che va cambiato passo. Su queste politiche, si legge in una nota dell'ente, gli italiani si sono espressi in modo netto, senza alcuna riserva, dai tentativi di deregulation venatoria allo smantellamento dei parchi, passando per il ventilato sterminio dei lupi, spiega l'ENPA, mai la legislazione ambientale del nostro paese è stata così sotto tiro come in questi 1000 giorni di governo Renzi. Pertanto auspichiamo che il prossimo esecutivo, quale esso sia, chiuda per sempre con l'esperienza del suo predecessore e che tenga finalmente nel debito conto la grande sensibilità degli italiani per la tutela degli animali e della natura. Il referendum Renzi l'ha perso anche su questi temi. E come non essere d'accordo con l'ENPA? The power of love, a force from above. Dal sito internet di Esseri Animali invece arriva una notizia interessante ma nello stesso tempo preoccupante. Nei primi 9 mesi di quest'anno il consumo di carne in Italia è calato del meno 5,1%, numeri che fanno tremare i produttori e gli allevatori, ma che più di tutto sono il chiaro segno di tempi e mentalità che cambiano. Sono infatti i giovani e soprattutto i millennials, cioè i nati tra l'80 e il 2000, ad abbassare la media. Questa fascia della popolazione è particolarmente attenta alla qualità, alla salute, alle caratteristiche con cui viene prodotto il cibo e si fida sempre meno dei mass media, prediligendo internet come luogo da cui attingere informazioni. Ed è anche la fascia che mangia sempre meno carne, il 25% non mangia carne rossa e il 67% la ritiene dannosa per la salute. Questi numeri li hanno snocciolati alla recente assemblea straordinaria di ASSICA, l'associazione industriali delle carni e dei salumi, tenutasi alla Fiera di Milano pochi giorni fa. Emergono quindi preoccupazioni per gli attacchi al settore ed ecco che subito dal Ministero arriveranno fondi per 3,8 milioni di euro. Partirà quindi presto la grande controffensiva dei produttori di carne contro la crescente sensibilità e attenzione sul cibo. Di questo ci avvisa appunto l'associazione Essere Animali in prima linea con le sue investigazioni sotto copertura per portare all'esterno di allevamenti e macelli la condizione, la tristissima, devastante condizione degli animali allevati a scopo alimentare. È triste, continua la nota di Essere Animali, vedere che una tale cifra di soldi pubblici venga spesa per difendere un settore ormai indifendibile, ma questa notizia non sorprende e non preoccupa più di tanto. È il segnale che stiamo raggiungendo sempre più persone e che il lavoro di denuncia e informazione sta ottenendo risultati. Sono contraccolpi normali e speriamo che sia così. E abbiamo concluso per oggi. Se vi chiedete chi siano le eroiche persone che davanti e dietro le quinte hanno permesso con il loro lavoro assolutamente volontario di andare in onda, ebbene queste persone si chiamano Roberta Marino, Tamara Granelli, Lorenzo Guadagnucci, Luigi Lombardi Vallauri, Francesca De Matteis, Gabriele Palloni, Giuseppe Coco e al microfono vi augura una eccellente giornata Camilla Lattanzi. Con la trasmissione Restiamo Animali l'appuntamento è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stessa onda, stessa ora. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.